Le ultime 24 ore in volo tra Milano, Madrid e Londra. Mistero se sia già tornato nella capitale britannica, ciò che si sa è che questa volta potrebbe restarci almeno per 4 anni. Un'attesa frenetica tra lanci della BBC e titoli di impatto sui giornali che già lo acclamano l'uomo della nazionale inglese. Fabio Capello, il primo CT italiano, chiamato a risollevare le sorti dell'Inghilterra dopo l'umiliante sconfitta 3-2 subita a novembre dalla Croazia, costata il posto a Steve McLaren e alla nazionale inglese l'eliminazione dagli europei del 2008. Tutto pronto, manca solo la firma sul contratto quadriennale. La Football Association starebbe trattando dettagli come lo stipendio da 6 milioni di euro a stagione da qui al Mondiale del 2010 con opzione di rinnovo fino agli europei del 2012. Inglesi sulle spine anche sugli uomini che Capello potrebbe portare con sé, il collaboratore Franco Baldini. The quality of the candidate is outstanding. Le qualità di Capello sono eccezionali, commenta l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger. L'unico suo problema potrebbe essere la lingua, per comunicare con la severissima stampa britannica. Giorgia Scaturro, GR24, Il Sole 24 Ore, Londra.